Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Anche le grandi star sono su Twitter. E Cher, madre di tutte le icone del pop, sfrutta alla grande lo strumento per dire tutto quello che le passa per la testa. Per esempio, io ho avuto una colica, e voi come pensate di festeggiare il compleanno di Madonna? Sempre su Twitter quest'estate, Cher ha annunciato che si sarebbe sposata per la terza volta. Il fortunato è il fidanzato tira e molla Tim Medvedev, un quarto di secolo più giovane di lei, ma approvato dai suoi figli. Ironica, strafottente, trasgressiva e trasformista decenni prima di Lady Gaga, Cher ha 66 anni, fa ancora parlare di sé. D'altronde questa è la sua vita, gossip, scandali e un successo dietro l'altro nella musica come il cinema. Cher è un monumento del mondo dello spettacolo. A 11 anni ho iniziato a esercitarmi facendo il mio autografo, è rimasto sempre lo stesso fino ad oggi. È lungo il percorso che ha portato Cher a diventare una diva internazionale. È un percorso fatto di alti e bassi, di momenti in cui è stata in vetta e momenti in cui è precipitata a terra. Un percorso fatto di magnifici incontri che hanno cambiato la sua carriera e la sua vita. Cher è una donna capace di rimettersi sempre in gioco, anche quando tutto sembra crollarle addosso. Se ne frega di quello che dicono di lei. Bene o male, l'importante è che si parli di lei. E se vuole fare una cosa, semplicemente la fa, all'inizio come adesso, perché è il suo istinto che l'ha sempre guidata nelle sue scelte. Io so che cos'è appropriato, ma il concetto di appropriato a me sembra venga frainteso nella nostra società. Penso che se tu guardi gran parte delle persone che sono lì a fare i pilastri della nostra società e guardi come si vestono, di certo si vestono in maniera molto appropriata secondo la società, ma io avrei qualcosa da ridire sulla loro interiorità, mentre non ho nulla da ridire sulla mia. La mia esteriorità non conta. La vita di Cher, all'anagrafe Cherylyn Sarkisian, comincia il 20 maggio del 46. Siamo al centro, California del Sud, una zona in cui il tasso di immigrazione è altissimo e la lingua inglese si contamina giorno dopo giorno con quella spagnola. Spanglish, è così che si chiama questo strano miscuglio che qui parlano in molti. Il signor John Sarkisian, il padre di Cher, fa il camionista e fa avanti e indietro tra gli Stati Uniti e il Messico. Lo fermano spesso alla frontiera quando deve entrare in Bassa California e i suoi documenti non fanno altro che alimentare i guai. Lo rivelano il suo cognome e il suo aspetto che non è americano. Di origine armena, si è rifugiato in America e si è rifatto una vita, non senza difficoltà. Nemmeno sua moglie, Jackie Jean Croce, è americana. Aspirante attrice e modella, ha origini francesi, inglesi e Cherokee. Cher eredita dai suoi genitori questo DNA che è frutto di generazioni di incontri e comincia presto a sentirsi diversa da tutte le sue coetanee. Quando ero piccola non c'erano intorno a me persone che mi assomigliavano. C'era Sandra Dee e tutte quelle ragazze che assomigliavano a Barbie. È stata dura. Non avevo nessuno con cui confrontarmi. La prima figura con cui mi sono confrontata è stata Audrey Hepburn. Era meravigliosa, ma al contempo non rientrava nel canone stereotipato della bionda alla Marilyn Monroe. Non è facile l'adolescenza di Cher, e non soltanto perché si tiene a distanza da quello che fanno le sue compagne di scuola, convinta di non essere all'altezza. No, la sua vita è difficile anche perché non ha più una famiglia che la sostiene. I suoi divorziano e sua madre, frustrata da un successo che vorrebbe con tutte le sue forze ma che non arriva mai, ripone su di lei tutte le sue aspettative. Cominciano anche le difficoltà economiche che spingono Jackie a risposarsi diverse volte. Un uomo forse potrà aiutarle ad andare avanti, pensa sempre. Dalla relazione con John Southall nasce Jorgen, la sorella di Cher. Le ragazze verranno poi adottate dal banchiere Gilbert Lapierre, ennesimo marito di Jackie, che darà loro anche il secondo cognome. Se Cher ne è felice? Bah! Sa solo che l'ha voluto il giudice. Altre domande su se stessa e sulla sua vita preferisce non farsene. Sognavo Hollywood. Era il mio modo di sfuggire alla realtà. In casa è sempre stato un gran casino. I mariti di mamma che andavano e venivano, papà che non ci aiutava coi soldi. Quando ho cominciato ad avere successo è stata la più grande rivincita nei confronti di tutti. Ne andavo così fiera. Di fascino Cherilyn ne ha da vendere. Quando ha solo 16 anni è costretta a lasciare la Fresno High School per colpa di una grave forma di dislessia non diagnosticata, ma nel frattempo ha una relazione con Warren Beatty. È bella, con quei drittissimi capelli nero corvino che le scendono lungo la schiena, la frangetta, e un'aria vagamente sulle nuvole, come chi nella realtà proprio non ci vuole stare. Cher guarda alle grandi star di Hollywood, è come loro che vorrebbe diventare. Di certo un po' di questa ossessione deriva dall'atteggiamento che sua madre ha nei suoi confronti, dal fatto che sua madre riponga su di lei tutte le speranze e i sogni che lei stessa non è riuscita a realizzare. Ma un po' viene anche da lei, da Cher, e dalla sete di successo che ha fin da bambina. Chissà, forse è vero che se vuoi così intensamente una cosa riesci a ottenerla. La fortuna di Cher inizia prestissimo e passa da un magnifico incontro del destino. Ero una giovane scatenata, volevo tutto e subito. Lui era già stato sposato una volta e aveva 28 anni, un bel po' più di me. Era già introdotto nel mondo della musica, ma non ce la faceva ad avere successo come cantante. Insomma, stava cominciando a pensare di lasciar perdere. Poi ha incontrato me e improvvisamente è successo tutto. Una bella svolta per tutti e due. Salvatore Bono, per tutti semplicemente Sonny, è figlio di un immigrato siciliano e di una donna anche lei proveniente da una famiglia di immigrati di seconda generazione. Nato e cresciuto a Detroit, Michigan, Sonny comincia a suonare le percussioni in un complesso insieme ai compagni di scuola, che dà scandalo al ballo di fine anno suonando rock and roll. Insomma, fatto sta che lui, Sonny, capisce presto che la sua strada è questa. Un po' più difficile è convincere gli altri. Quando ho conosciuto Sherilyn, erano ormai 10 anni che rincorrevo il mio sogno. Ma non era ancora successo niente. Stavo pensando di smettere, davvero. Di trovarmi un lavoro serio, come dicevano i miei. Intanto bazzicavo nei Gold Star Studios, incontravo le star della musica. Ogni tanto facevo sentire i miei pezzi. Però davvero non succedeva niente, niente di niente. Avevo 16 anni ed ero in un locale. Sonny entrò. La gente parlava di lui prima che entrasse. Giuro che questa cosa mi è capitata solo 2 volte nella mia vita e sempre con uomini italiani. L'ho guardato e ho pensato, questo è l'uomo più strano che abbia mai visto in vita mia. Aveva i capelli lunghi e portava gli stivali come i Beatles e io non li avevo mai nemmeno sentiti nominare. E così iniziamo a vivere insieme. Lui mi disse che se volevo potevo cucinare e pulire. Io gli risposi che non sapevo cucinare. A lui andò bene così, evidentemente. Dalla sera alla mattina, senza troppe formalità, Cher si trasferisce a casa di Sonny Bono. Ha 16 anni, ma è molto più sveglia della sua età. Inoltre il suo aspetto la fa sembrare più grande, ne dimostra più o meno una ventina. Comincia la ruota delle bugie. A Sonny dice che è maggiorenne. A sua madre dice che dividerà la casa con una coinquilina, una sua ex compagna di scuola. Niente di vero, dicevamo. Tra Sonny e Cher nasce all'inizio una bella amicizia che si trasforma presto in amore. Lui è fascinoso, diventa per lei un punto di riferimento, lo segue ovunque. Anche nei Gold Star Studios, teatro dell'incontro con un altro magnifico destino della sua vita. Allora, è andata così. Phil Spector è il grande produttore dei Gold Star Studios di Hollywood. A partire dalla fine degli anni 50 sforna un talento dopo l'altro e non sbaglia una canzone. Per dire, ha lanciato Benny King, quello di Stand By Me, tanto per intenderci. È illuminato, coraggioso, un grande sperimentatore. Naturale per uno come Sonny Bono cercare a tutti i costi di entrare nel suo mondo. E allora comincia a dargli una mano, così, tanto per bazzicare da quelle parti. Andavo lì qualche giorno alla settimana. Gli facevo un po' di commissioni, davo una mano a gestire i cantanti. Beh, ogni tanto era frustrante. Però suonavo con gli altri musicisti, aggiustavo i testi. Insomma, mi serviva per farmi vedere. Spector lo sa che Bono vuole fare il cantante. E tra un caffè, una nota spese da compilare, gli dà anche la possibilità di fargli sentire qualche suo pezzo. Però l'italo-americano non lo convince fino in fondo e finisce sempre in niente. Insomma, una mattina Cher esce di casa con il suo amore Sonny Bono e lo accompagna negli studi di Spector. Stavo aspettando Phil Spector insieme a Sonny e una delle coriste chiamò per dire che aveva bucato una gomma. Phil disse, Sonny dice che sai cantare, coraggio. Io ero terrorizzata, non credevo di farcela. Cioè, l'avrei voluto, ma quando ti ci ritrovi è tutta un'altra cosa. Poi Sonny mi ha detto di buttarmi e con il suo solito bel modo di fare mi ha convinta. John Lennon diceva che la vita è quello che ti succede mentre stai facendo altri progetti. Niente di più vero nel caso di Cher. Comincia per lei così casualmente una brillante carriera da corista. Be My Baby dei Ronettes, Da Do Run Round dei Crystals, You've Lost That Loving Feeling dei Righteous Brothers. In molti pezzi celebri del periodo c'è la voce di Cher. Tanto che Sonny, che ancora fa fatica a sfondare e ha visto la sua giovane compagna andare molto più forte di lui, le propone di cantare i suoi pezzi. Sai una cosa? Sonny voleva lanciarmi come cantante solista e io avevo troppa paura di salire sul palco. A lui non interessava, lui avrebbe prodotto le canzoni, le avrebbe scritte e io le avrei cantate. Punto. La prima volta che andai in studio però dissi che non ce la facevo, che non potevo farcela da sola, salire sul palco da sola. Di fatto, la prima volta che ci esibimmo, lui mi spinse letteralmente sul palco perché io davvero non ci riuscivo, non riuscivo nemmeno a mettere il piede su quel pavimento. Siamo nel 1964. Sonny Bono scrive canzoni, Cherilyn le canta benissimo, però ha una grande paura. A esibirsi da sola proprio non ce la fa. Finché faceva la corista insieme alle altre ragazze, e in sala d'incisione erano in pochi a sentirla cantare, andava tutto benissimo. Ma adesso l'idea di entrare in scena da sola, forse anche in un pub con 50 persone, non la fa dormire di notte. E così, per farsi forza l'uno con l'altro, comincia un'avventura di coppia che dalla vita privata si sposta al palcoscenico. I futuri Sonny and Cher esordiscono facendosi chiamare Caesar and Cleo, con il singolo Baby Don't Go, che balza in fretta nella top 10 della classifica americana. È l'inizio di tutto quanto. Quando ci siamo messi insieme, ci siamo fatti forza l'uno con l'altra. Lei è stata la mia ispirazione. La cosa funzionava, era perfetta. Siamo entrati nel mondo dello spettacolo e abbiamo scoperto che la nostra strada era quella di stare insieme sul palco. What's it all about, Alfie? Is it just for the moment we live? What's it all about when you sort it out, Alfie? Are we meant to take more than we give? Or are we meant to be kind? I magnifici destini. But at least I'm sure of all the things we got, babe. I got you, babe. I got you, babe. Tutti la conosciamo come Cher, un'intramontabile star internazionale. La sua carriera però è cominciata in coppia con quello che nel periodo metà anni 70 è anche il suo fidanzato, Sonny Bono. Sonny e Cher, dopo aver esordito col nome Caesar and Cleo, cavalcano l'onda di un singolo di grande successo e fanno uscire il primo album firmato col nome che li consacra, Look at Us, un enorme successo sia in America che in Inghilterra, tanto che cominciano a fioccare gli inviti in TV. Sammy Davis Jr., presentatore del varietà della NBC, Hullabaloo, non sa esattamente con chi ha a che fare, ma gli hanno parlato di loro come di una talentuosa coppia emergente. Io non avevo mai sentito parlare dei nostri prossimi ospiti. In effetti, poche persone hanno mai sentito parlare di Mr. e Mrs. Salvatore Bono. E adesso, all'improvviso, hanno 5 singoli in testa alle classifiche. Sembra proprio che i signori Bono abbiano intenzione di restare nei paraggi per molto, molto tempo. Certamente li conoscete meglio coi loro nomi di battesimo, Sonny e Cher. Sonny e Cher sono veramente sulla cresta dell'onda. In pochi mesi piazzano ben 5 brani nella top 20 americana, un record. E Cher, la vera star della coppia, Bono lo sa. Scrive per lei, la sostiene, la aiuta a superare la sua paura del palco e ottiene un risultato che solo i grandi manager sanno come portarsi a casa. Cher, con i suoi lunghi capelli dritti, nerissimi, il viso vagamente annoiato e l'ombelico sempre scoperto, diventa l'icona di un'intera generazione. Ma poi Bono si fa prendere la mano. Vuole sempre di più, non si accontenta di un successo che li sta già portando nei più importanti show TV e nei concerti più affollati del periodo. No, lui è ambiziosissimo e vuole usare, si fa per dire, la sua compagna per arrivare a Hollywood. Nel 1967 esce Good Times, un musical romantico nel quale i due interpretano loro stessi, un flop colossale che li porta verso il dimenticatoio molto più velocemente di quanto ci abbiano messo a salire in vetta. Segue una successione di scelte sbagliate. Finisce che Sonny e Cher passano di poco tempo dalle ospitate all'Ed Sullivan Show ai locali di provincia. Lei in cuor suo lo sa che adesso da sola potrebbe farcela alla grande, ma per amore segue Sonny. Sonny e io suonavamo in certi locali. È stata dura. Era una cosa che detestavo perché eravamo abituati a tenere enormi concerti e poi all'improvviso ci siamo ritrovati a suonare in questi tristi casinò di provincia dove devi tenere 2 spettacoli a sera e nel secondo ci sono solo ubriaconi che non hanno la minima idea di chi stiano ascoltando. Sonny e Cher continuano a mescolare il palco con la vita privata. Nel 69 nasce la loro bambina, Chastity, che oggi, dopo ripetute operazioni per cambiare sesso, è diventata Chaz. Sono felici insieme, stanno bene, ma il lavoro va sempre peggio. Cher sta cominciando a muovere i primi passi da solista, ma sempre in parallelo con la carriera di coppia. È evidente a tutti che da sola ha tutto il potenziale per diventare una star, ma lei a mollare il suo Sonny proprio non ce la fa. Anche se ormai, dopo l'esplosione del successo, sono precipitati nel vuoto del quasi anonimato. Sonny continuava a dirmi, dammi solo un paio d'anni e ti prometto che torneremo in cima. Lui era davvero ottimista, era pieno di energie. Credeva in noi, credeva davvero in Sonny e Cher. In una cosa Sonny e Cher sono maestri, nei battibecchi. All'inizio le battute, le scenette, le gag in cui lui fa il marito bistrattato e lei la moglie pungente sono solo un intermezzo tra una canzone e l'altra, ma presto diventano il corpo centrale del loro show. A vederli nessuno direbbe che Sonny ha il pieno controllo delle scelte di sua moglie, che decide con lui ogni copione e ogni aspetto della sua vita. Già perché sul palco lei lo insulta, ha da ridire su qualsiasi cosa. Il meccanismo, spontaneo o studiato che sia, si rivela una perfetta macchina comica. La gente iniziò a sentir parlare di quanto eravamo divertenti e all'improvviso non si riusciva più a entrare in quegli stupidi orrendi nightclub perché tutti venivano a sentirci. Poi è successo che una sera, a una delle nostre solite serate al casinò, c'era un talent scout della TV ed è arrivato il Sonny e Cher Comedy Hour. Ancora una volta a cambiare la vita di Cher c'è un magnifico incontro del destino. quello con Fred Silverman, capo della CBS. È successo questo. Un talent scout pagato per trovare nuovi talenti da usare in TV va a vedere il concerto di Sonny e Cher a Las Vegas e si diverte da morire. Parla coi suoi capi, loro gli danno l'ok e va a proporre ai due il primo speciale televisivo, The Nitty Gritty Hour. Siamo nel 1970. Lo show, un miscuglio ben scritto di slapstick, musica dal vivo e sketch, si rivela un successo. E così il presentatore Merv Griffin capisce che non bisogna lasciarseli scappare e li invita al suo The Merv Griffin Show. Una settimana da ospiti sulla CBS, successo replicato. Ne parlano tutti, Sonny e Cher sono la rivelazione del momento. In molti si ricordano delle loro canzoni. Qualcuno ha perfino ascoltato i pochi singoli che Cher ha fatto da sola, ma questo è il loro vero grande trampolino di lancio. È a questo punto che interviene Fred Silverman, direttore esecutivo della rete. Silverman propone ai due un contratto per un programma tutto loro, il The Sonny and Cher Comedy Hour. La prima puntata va in onda il 1 agosto 1971 per sostituire un altro programma serale e buca lo schermo. Silverman non ci pensa due volte e sposta lo show in prima serata facendolo diventare per i 3 anni successivi uno dei 10 programmi più seguiti della TV. Winners come and they go, and we watch the melting snow. Sure as summer follows spring, all the things you do give me a reason to build my world around you. Grazie allo show TV, la coppia Sonny and Cher riprende a funzionare. Proposte di contratto, grandi concerti, interviste, tutto sta andando per il verso giusto. Una bomba però è pronta ad esplodere e si chiama Cher. Particolare, diversa da qualunque altra donna, sensuale e ironica allo stesso tempo, la ragazza adesso sente che può farcela intraprendere la tanto agognata carriera solista. Sonny iniziò a cambiare. Mise in difficoltà il nostro rapporto. Cominciò a fumare sigari, voleva parlare unicamente d'affari. Non aveva più tempo per nessuna delle cose che trovava divertenti prima. Inutile negarlo. Sonny vuole bene a sua moglie, ma è invidioso del suo carisma e non accetta che lei possa avere successo senza di lui. Va in crisi la coppia sul palco e a ruota si disfa la coppia nel privato. Lei glielo chiede anche di scrivere canzoni per lei, ma lui ci prova svogliatamente. Insomma, lo sanno tutti e due che non può dire di no, ma di passione non ce ne mette. È a questo punto che interviene un magnifico incontro del destino. Il produttore Snuff Garrett. Garrett ha un modo completamente diverso di lavorare rispetto a Sonny, più distaccato, professionale. Proprio quello che serve a Cher, che adesso ha 25 anni, è più consapevole delle sue capacità e capisce che il percorso che le è andato bene finora adesso non fa più per lei. Insomma, Garrett riesce a produrre il primo singolo numero uno in classifica di Cher, Gypsies, Tramps and Thieves, che diventa anche il singolo più venduto di tutta la storia della MCA Records. A Sonny non andava giù. Ha cominciato a mettermi i bastoni tra le ruote, non accettava il mio successo e non sopportava che fosse qualcun altro a farmelo avere questo successo. Snuff è stato la mia salvezza in quel periodo. Garrett viene osteggiato da Bono sempre di più e alla fine, esausto dalle continue intromissioni, rompe la collaborazione con Cher. A questo punto Sonny insiste perché lei incida Bittersweet White Light, ma ancora una volta è un flop. La loro relazione, che già vacilla, è sulla strada della rottura definitiva. Ma lei, anche grazie a Garrett, è ormai lanciata verso un futuro da star. I was born in the wagon of a traveling show. My mama used to dance for the money they'd throw. Mama would do whatever he could. Preach a little gospel. I magnifici destini. Goodbye to me. Ce la farà Cher ad avere successo da sola senza Sonny Bono al suo fianco? Beh, la storia ci dice di sì. Più di 40 anni di carriera tra alti e bassi, cambi di look, film e premi. Siamo all'inizio degli anni 70. Sonny e Cher, lasciando il popolo americano sgomento, si separano. Per forza di cose anche il loro show viene cancellato. Tre giorni dopo la formalizzazione del divorzio, a sorpresa, Cher si risposa con il musicista Greg Allman. Fanno infuriati, si grida lo scandalo. Cher capisce che ancora una volta la strada per lei sarà in salita, anche se la realtà non è esattamente quella che percepisce il pubblico. La gente pensava che io avessi lasciato Sonny perché sapevo di poter avere successo anche senza di lui. Ma questo non corrisponde per niente alla verità, perché io non avevo ancora fiducia in me stessa e è solo che non potevo più continuare a vivere come una bambina. Da un programma di successo ne vengono estratti due. Ma mentre quello di Sonny viene cancellato dopo poche settimane, la serie di Cher le frutta ben 4 nomination agli Emmy già nel primo anno di messa in onda. Intanto però la musica non va altrettanto bene. L'album Stars si piazza solo al 153esimo posto nella classifica americana e non va certo meglio con I'd Rather Believe in You e Cherished. Sperando di ripetere il grande boom in coppia, prova a mettere in piedi un duo con il suo nuovo marito. Ma anche qui niente da fare. Sempre di più sembra che la strada di Cher sia la recitazione. Ho sempre fatto molta più fatica con la musica. Invece, sia in TV che al cinema, risultavo convincente da subito. Non ho mai capito esattamente perché, ma ho imparato ad accettarlo. All'inizio degli anni Ottanta, Cher si è arresa. La musica non mi vuole? Sfonderò nel cinema. Beh, non è facile ottenere degli ingaggi. Il personaggio risulta poco spendibile, troppo poco serio e indissolubilmente legato a un'immagine di scena. Ma Cher è determinatissima. Primo passo, trasferirsi a New York. Secondo passo, partecipare come fosse un'attrice sconosciuta qualsiasi a tutti i provini che le interessano. Naturalmente ce la fa. E il successo supera di gran lunga le sue aspettative. Robert Altman le propone un ingaggio a Broadway in Come Back to the Five and Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean. E la vuole anche per la trasposizione cinematografica che ne viene fatta appena dopo. La critica acclama la sua interpretazione di Sissy e le fa guadagnare addirittura la nomination ai Golden Globe. Adesso la vogliono in molti. Il regista Mike Nichols le fa fare Silkwood con Meryl Streep e Kurt Russell. E arriva la prima candidatura all'Oscar. Per lo stesso film vince un Golden Globe come migliore attrice non protagonista. Non basta. Con Dietro la maschera di Peter Bogdanovich, datato 1985, viene premiata a Cannes e rinominata ai Golden Globe, mentre con Stregata dalla luna dell'87 vince l'Oscar come migliore attrice protagonista. Ma questa è casa tua? Esatto. Mi ci hai portato apposta, vero? Sì. Noi due abbiamo fatto un patto. Tu hai detto che se venivo con te all'opera mi avresti lasciato in pace per sempre e io allora ci sono venuta. Bene, adesso io sposo tuo fratello e tu mi lasci in pace per sempre, chiaro? Una persona un giorno si rende conto di aver commesso degli sbagli nella sua vita e da quel giorno modifica il suo modo di agire e magari cambia anche il suo destino. Al cinema il successo di Cher è incredibile. Neanche lei ci avrebbe mai pensato, neanche sua madre, che su di lei ha sempre riposto grandi aspettative, avrebbe mai sperato tanto. La vogliono tutti, fioccano i premi più importanti, ma lei la musica non la abbandona. Potrebbe farlo. La sua carriera come attrice va a gonfie vele, ma il suo primo amore resta sempre quello. La musica. Ho firmato un contratto con la Geffen Records e poi ho fatto Heart of Stone. Ho venduto 4 milioni e mezzo di copie. È la rinascita anche nella musica. Cher riparte in tour toccando Europa, America e Australia. Contribuisce alla colonna sonora di Siren, del quale è anche protagonista. Ci sono anni particolari nel bene e nel male. Per Cher quest'anno è il 98. Chastity, sua figlia, un giorno la chiama e le dice che papà Sonny Bono è morto in un incidente sciistico sulle montagne di Aspen. Sono divorziati da più di 20 anni, ma per Cher è uno shock. Cher viene scelta per leggere l'elogio funebre durante il quale chiama Bono il personaggio più indimenticabile che io abbia mai incontrato. Cher incontra il produttore Mark Taylor, con il quale realizza Believe, il singolo cantato da una donna più venduto in Inghilterra, nonché uno dei singoli più venduti al mondo. Primo posto in classifica in 23 paesi, 10 milioni di copie vendute, una consacrazione a 50 anni. Cantanti, non consideratemi una cantante, e attori, non consideratemi un'attrice. Già, forse basta icona. Un'icona che tra alti e bassi è ancora una regina.